Salva Danaio con Valentina Furlanetto. Bentrovati da Valentina Furlanetto a questa nuova puntata di Salvadanaio. Oggi parliamo di viaggi low cost, un tempo sinonimo di giovani saccopelisti, fatiscenti sistemazione alberghiere e viaggi aerei lunghi e faticosi, ma non è più così, complice anche la crisi e anche la consapevolezza di viaggiatori sempre maggiore. I viaggi low cost stanno diventando un nuovo modo per intendere il viaggio. Ne parliamo perché oggi in edicola con Il Sole 24 Ore esce la quinta guida low cost di qualità dedicata oggi proprio al turismo, ma ne parliamo anche perché è stato da pochi giorni presentato al World Travel Market di Londra il rapporto annuale di Euromonitor per il 2009 che mette il low cost in primo piano. Le notizie di cronaca tra l'altro ci danno qualche informazione riguardo all'high cost, ossia oggi a Venezia è stata presentata una proposta destinata a far discutere. Da gennaio sul web si potrà trovare un termometro virtuale che indicherà ai turisti i giorni no per una visita a Venezia, quando oltre alla ressa possono trovarsi a pagare i servizi come il vaporetto o il garage con prezzi maggiorati. Si tenta così di dissuadere la presenza turistica in città nei giorni di maggior intasamento. Questo per quanto riguarda le iniziative delle città, ma anche le agenzie di viaggi, i tour operator, internet, gli operatori su internet stanno cercando di differenziare la loro offerta. Il numero per chiamare è 800 24 00 24 per mandare un sms con le vostre domande agli esperti che tra poco presenteremo e che sono qui con noi. Il numero è 349 238 6666. Ma prima di tutto questo, come ogni giorno, diamo uno sguardo a ciò che sta accadendo in Europa per quanto riguarda la borsa. Le borse in Europa che stamattina erano contrassate ma intorno allo 0%, ora l'andamento è nettamente peggiorato. A Parigi l'indice cede l'1,64%, Francoforte meno 1,66%, Londra meno 1,29%. Peggio fa la borsa di Milano, dove il MIBTEL cede il 2,11%, il MIB 30 il 2,41%. Piazza Affari è appesantita dai titoli bancari. In particolare pesante questa mattina il Banco Popolare sulla scia della trimestrale diffusa venerdì sera, che ha evidenziato un calo del 53% sul periodo luglio-settembre. Il titolo del Banco Popolare cede il 5,41%, peggio fa soltanto la banca Monte dei Paschi che cede un 5,46% anch'essa dopo i conti. Male anche Unicredit, meno 3,97%, e male anche Intesa San Paolo che cede il 4,04%. Fra i titoli difficili, con andamento difficile questa mattina, c'è ancora Parmalat meno 4,98%, che venerdì, diffondendo i conti trimestrali, ha ridotto ulteriormente i target sui margini di fine esercizio. A guidare invece i rialzi questa mattina, Impregilo più 4,42%, accesa dall'attesa sulle decisioni dell'azionista di riferimento in merito allo swap sul 3% del capitale concluso con ABN AMRO in gennaio e scaduto nel weekend. Questo per quanto riguarda Piazza Affari. Tokyo, lo ricordiamo, stamattina ha chiuso in leggero rialzo dopo una seduta molto volatile e dopo l'entrata ufficiale in recessione dell'economia del paese annunciata appunto questa mattina. Euro contro il dollaro a 1,2666 in questo istante contro il dollaro, appunto. Parliamo di viaggi low cost di qualità, dicevamo, e ci riferiamo anche appunto a questa guida che trovate oggi in edicola con Il Sole 24 Ore. Per cercare di capirne qualcosa di più sentiamo la nostra scheda. Nel turismo l'equazione risparmio uguale viaggio spartano è superata da tempo. Viaggiare low cost è diventato così uno stile di vita, una scelta consapevole e trasversale, che coinvolge ormai tutte le fasce sociali, dallo studente al professionista, accomunati dal motto «spendere meno per partire più spesso». L'evoluzione del low cost ha pian piano investito tutti i momenti del viaggio, dal trasporto all'alloggio alle visite guidate. In alcuni casi si tratta solo di evitare di pagare per servizi non richiesti, di cui si può fare tranquillamente a meno. In altri, il risparmio proviene da scelte intelligenti al momento della prenotazione, sfruttando ad esempio le politiche tariffarie dei tour operator, spinti da una concorrenza ogni giorno più aggressiva e da una domanda sempre più precisa e consapevole. Il primo passo per risparmiare è come sempre quello di informarsi bene prima della partenza. Su internet proliferano i siti dedicati al turismo, dove trovare consigli preziosi nella fase di scelta della meta della nostra vacanza. Una volta deciso dove andare, la prenotazione è il momento più delicato. Tariffe molto convenienti sono disponibili sul web grazie alle agenzie di viaggio online. Dopo l'ormai famoso last minute, le trovate più originali propongono la vacanza all'asta o la formula roulette. In tempi di crisi, però, anche i tour operator vanno a caccia di certezze e oggi, per risparmiare, suggeriscono l'early booking, la prenotazione in anticipo. Ma le opportunità di risparmio non riguardano solo il soggiorno e il viaggio, anche altri costi si possono ridurre, dall'assicurazione con le polizze low cost alle visite guidate e le mostre con le city card. E se soldi proprio non ce ne sono, si può sempre ricorrere ad un prestito e pagare la vacanza a rate. In questo caso, però, attenzione, il risparmio è solo momentaneo. E infatti bisogna fare attenzione con la vacanza a rate. C'è proprio un capitolo della guida che oggi trovate con il Sole 24 Ore che riguarda la vacanza a rate. È un fenomeno in crescita che in un certo senso assomiglia all'acquisto a rate di televisori, di frigoriferi e quant'altro, un fenomeno nuovo per l'Italia, però appunto bisogna stare attenti ai rischi di avere subito un viaggio e magari pagare più avanti e appunto ritrovarsi a pagare il TAEG. In questo caso oscilla, a seconda degli operatori, tra il 13% e il 16%. Se volete scriverci, qualcuno ha già iniziato a farlo e cercheremo di dare risposta al 349-238-6666 oppure chiamateci all'800-24-0024 per parlare con noi, ma soprattutto con i nostri ospiti che ci aiuteranno a dipanare la matassa del turismo low cost di qualità, che sono Ettore Pettinaroli, caporedattore di Tutto Turismo e uno dei curatori della guida del Sole 24 Ore. Buongiorno. Buongiorno, buongiorno a tutti. Poi abbiamo Francesca Benati, direttore marketing di Expedia Italia, una delle principali, forse la maggiore agenzia online. Buongiorno. Buongiorno a tutti. Poi abbiamo in collegamento Alberto Corti, direttore di Federviaggio Conf Turismo. Buongiorno a lei. Buongiorno a tutti. Con loro vogliamo parlare di turismo low cost di qualità. Allora subito chiediamo a uno dei curatori, come dicevamo, della nostra guida, il caporedattore di Tutto Turismo Pettinaroli. Ma insomma, è vero che si può viaggiare low cost, per così dire, mantenendo uno standard alto, che non è più una tipologia di viaggio solo per giovani, per squattrinati, per persone che vogliono spendere meno, ma magari avere anche un servizio più basso? Sì, si può, anzi, ultimamente addirittura è diventata una moda prima ancora che una necessità. Ci stiamo abituando a non buttare via i soldi. Quello che una volta era il no frills, il senza fronzoli, è diventato una piacevole abitudine. Ci siamo resi conto che buttando via meno soldi possiamo viaggiare di più o stare via più giorni. Bisogna sempre fare delle scelte e sapere soprattutto che cosa si vuole dalla vacanza. Non farsi affascinare da delle formule tipo tutto compreso, all inclusive, con 50 euro ti do tutte le visite ai musei di una città, anche se poi non avremo il tempo materiale di vederli. Bisogna sapere, essere sempre sicuri di quello che si vuole e magari con molto anticipo, che aiuta. Francesca Benati di Expedia, come fate a proporre tariffe scontate? Le nostre tariffe, allora, intanto abbiamo gli accordi con tutti i maggiori carrier, le maggiori catene, abbiamo una profondità di assortimento tale per cui abbiamo anche delle relazioni talmente buone che fanno sì che noi riusciamo comunque a garantire al cliente finale un ottimo prezzo senza penalizzare quella che è la relazione o col vettore di aereo oppure con l'albergatore. Sicuramente la scala globale di un operatore come Expedia aiuta a rassicurare da una parte l'utente finale, dall'altra anche, ripeto, dall'altra parte della catena, quindi i nostri partner, in un'ottica di lungo periodo, per cui la pianificazione di lungo periodo è sicuramente uno degli strumenti che aiuta tantissimo anche l'azienda nel proporre tariffe sempre più competitive. Alberto Corti, direttore di Federviaggio Confturismo, che rappresenta un po' tutta la filiera della produzione di viaggi organizzati, tour operator, le compagnie. Ecco, c'è una forte concorrenza di internet, no? Come si stanno difendendo i tour operator e le agenzie tradizionali? Ci sono anche da parte di questi operatori tradizionali delle offerte low cost? Sì, senza dubbio, più che difendersi, direi che la cosa importante è sempre entrare nel business, quindi quando c'è un business nuovo non si potrebbe parlare così di internet, che in realtà c'è da diversi anni, però comunque sia di fronte a un fatto nuovo, si entra, ci si impadronisce di questo nuovo strumento e se ne scoprono le positività. Nel caso specifico di internet e comunque delle vendite online, molti operatori tradizionali sono entrati su questo business, oltre alla nascita evidentemente di operatori nuovi. Il caso di Expedia evidentemente è un esempio clamoroso di come un'azienda possa avere un grande successo entrando su una formula di business completamente nuova, ma lo stesso hanno fatto operatori, tour operator classici e anche evidentemente le stesse agenzie di viaggio nella distribuzione del loro prodotto. Per quanto riguarda le modalità con le quali si viene incontro ad una richiesta di spesa più consapevole di low cost, o in realtà poi, come diceva Ettore Pettinaroli, il fatto di frazionare la spesa in più eventi, quindi viaggiare di più nel corso dell'anno, la spesa poi totale alla fine dell'anno in realtà è forse superiore a quella dell'anno precedente, ma in realtà si è viaggiato di più, ecco, beh, ci sono le modalità che voi stessi avete accennato nella scheda, quindi la prenotazione in funzione, il prezzo in funzione della data di prenotazione, le riduzioni per le famiglie, le campagne per una stagionalità prolungata, quindi prenotare su una data solo di una settimana diversa comporta una variazione sensibile di prezzo. E poi tutte quelle che sono le tecniche di spacchettizzazione, passatemi il termine anche se è veramente orribile nella lingua italiana, per cui vendita di singole componenti che vengono incontro alla richiesta del cliente, di fatto da un lato di personalizzare il suo viaggio e dall'altro lato anche di acquisire nel modo migliore le singole componenti che poi comporranno il suo viaggio. Ecco, prima di andare ai nostri ascoltatori che ci stanno già chiamando all'800 24 0024, volevo chiedere a Pettinaroli quali sono, se ci può riassumere, le formule con le quali si può risparmiare. Abbiamo nominato la roulette, ma forse non tutti sanno di cosa si tratta. Last minute invece che early booking, ci faccia un quadro. Parliamo di formule risparmio che si possono ottenere entrando anche in un'agenzia di viaggio tradizionale, la solita agenzia sotto casa, e questi sconti sono quasi sempre reperibili direttamente stampati sui cataloghi tradizionali del tour operator. La formula della formula roulette, che ha un nome che dice tutto, cioè si parte, si paga, ma non si sceglie solo la destinazione e la categoria dell'albergo. A volte il nome dell'albergo te lo dicono direttamente all'aeroporto di arrivo. È una formula abbastanza rischiosa, però comporta dei bei risparmi, perché quando ti dicono un 3 stelle a Creta, per dire, potrebbe essere anche 2 chilometri dal mare, potrebbe non avere la piscina. Al contrario, può succedere che tu paghi un 3 stelle a Creta, l'operatore in quel momento ha della disponibilità solo in 4 stelle e allo stesso prezzo ti manda. Quindi richiede una flessibilità, un adattamento, uno spirito di adattamento molto forte, non sì. Sempre si viene incontro alla fine a ciò che ci si aspettava. No, quello non bisogna avere aspettative al di là della destinazione e della categoria dell'albergo. Per il resto il risparmio permette, di solito vale la candela. Poi c'è ovviamente il last minute, che forse quasi tutti conoscono, sia la prenotazione all'ultimo minuto che permette risparmi fino al 50%, c'è anche l'early booking, che al contrario è una prenotazione con largo anticipo, è così? Sì, l'advance booking, le prenotazioni anticipate, ognuno lo chiama un pochino come vuole. Comunque prima prenoti, meno spendi. ci sono fasce a seconda degli vari operatori, fasce di sconto, quindi se prenoti 45 giorni prima hai un certo sconto, se prenoti 60 hai un certo sconto, prenoti e paghi, va chiusa la pratica. Ci sono anche le aste, no? Adesso le aste di viaggio, in cosa consistono? Le aste online non sono ancora molto frequenti in Italia. Comunque ci sono le aste tradizionali che si trovano anche su alcuni siti di tour operator online, oltre che sui siti specializzati, e sono aste a rialzo. L'operatore mette all'incanto una serie di pacchetti, non sono mai tantissimi, ripeto, e c'è una data di chiusura dell'asta, a un certo punto chi offre di più vince, come al solito. Attenzione, perché l'entusiasmo dell'asta può portare dei risparmi risicatissimi. Un viaggio che paga, che costerebbe 1000 potrebbe essere giudicato a 950 o 800. Non è sempre conveniente. Nella guida si parla anche di altre modalità, ossia anche del fai da te, ad esempio dello scambio di casa con qualcuno disponibile a scambiare l'appartamento, dell'house sitting, ossia si alloggia gratuitamente a casa di una persona e magari si fa qualche lavoro o si tiene l'animale di casa in cura in quei giorni, ci sono siti specializzati in tutto questo. Questo lo trovate sulla guida. Volevo chiedere a Francesca Benatti di Expedia innanzitutto che numeri fa Expedia, cioè da quanto esiste e per quanto riguarda il vostro, insomma, fatturato e numeri di clienti, e poi volevo capire la remora che di solito le persone, soprattutto una clientela non giovanissima, ha nel prenotare online e a volte che non ci si trova nel caso in cui si sia scontenti davanti a un operatore. Questo frena molto in Italia? Ma credo, allora, tante domande, partiamo dalla prima magari. Allora, Expedia è nata in America da Microsoft nel 95, per cui siamo presenti ormai da tantissimi anni sul mercato. In Italia la sede italiana è stata aperta nel 2001 ed è diventato un sito a servizio completo nel 2004. Da quando abbiamo aperto a tutti i tipi di prodotti siamo diventati in assoluto poi il principale tour operator, agenzia di viaggio online, non solo in Italia ma lo siamo nel mondo da sempre. I numeri mi fa una domanda un po' difficile, però quello che le posso dire è che noi abbiamo una media di 4.000 nuovi clienti a settimana, muoviamo dei numeri in termini di clientela superiore al milione. Quando parlo di clienti parlo di persone che hanno comunque effettuato un acquisto nell'ultimo anno e sono iscritti alla newsletter. Stiamo crescendo ancora a tassi a doppia cifra nonostante la crisi di quest'anno, crisi che, vabbè, come sapete nel settore si è sentita in maniera importante poi da settembre in poi, per cui diciamo che in questo momento siamo un sito che sta godendo di ottima salute. Per quanto riguarda la fiducia, sicuramente se ne è parlato anche moltissimo quando il Politecnico di Milano ha presentato la ricerca sull'e-commerce, che ha dimostrato come in realtà il turismo online sia il traino della categoria dell'e-commerce. Le barriere all'acquisto di viaggio online non sono altro che le barriere che ha l'e-commerce in generale, quindi una scarsa fiducia ancora nell'utilizzo di strumenti di pagamento online, una scarsa cultura di quelle che sono veramente le opportunità che la rete ti offre anche in termini di acquisto di viaggi. Il viaggio è di per sé, essendo un servizio immateriale, una delle cose che meglio si presta ad essere venduto online, proprio per la capacità di trovare informazioni, di informarsi da parte dell'utente prima poi di scegliere. Ricordiamo che non esiste solo Expedia, perché altrimenti no, certo, non saremmo onesti, insomma, e vogliamo esserlo. Ci sono moltissimi siti per le prenotazioni, Expedia è un leader, per questo lo abbiamo contattato, ma c'è Last Minute, c'è iDreams, c'è Booking.com, Todomondo, insomma ce ne sono moltissimi e faremo un torto a qualcuno a nominarlo, ma li trovate tutti sulla guida del Sole 24 Ore. Volevo dare la linea al nostro ascoltatore che è in attesa, Mauro da Genova, buongiorno, scusi l'attesa, ci dica. Buongiorno, grazie a voi, buongiorno a tutti. Niente, io volevo soltanto portare la mia esperienza, perché è una decina d'anni circa che viaggio low cost con la mia famiglia e direi che non ho mai avuto problemi. Se posso dare un consiglio, io ho viaggiato con la più grande, diciamo, forse la più grande compagnia aerea low cost d'Europa, ho viaggiato da tutte le parti e bisogna essere leggermente flessibili, leggermente, dico io. Lei parla di compagnia aerea, quindi ha viaggiato low cost per quanto riguarda i voli? per quanto riguarda i voli, questo per quanto riguarda i voli, le dico. E poi ho fatto viaggi, direi, in mezzo mondo tramite agenzie che sono quelle agenzie in franchising, che sono catene di agenzie, ecco, per dire. L'unico consiglio che posso, se posso dare, è di non aspettarsi una grandissima professionalità dagli impiegati, dalle persone che sono presenti nelle agenzie, perché purtroppo non sono molto giovani e non è colpa loro, e non sono molto professionali. Però io ripeto, nonostante questo non ho mai avuto problemi, ho risparmiato e ci vuole una leggera flessibilità. Va bene, non Mauro, grazie. Alberto Corti, un minuto prima del nostro GR. Sì, beh, su questi punti devo dire che sostanzialmente abbiamo detto tutto. Un punto per quanto riguarda quello che diceva l'ascoltatore, le agenzie, beh, senz'altro è anche un prodotto che è estremamente evoluto, il nostro, nell'ultimo periodo, e di conseguenza anche la preparazione un po' di tutti, dalla parte dei clienti ma dalla parte di chi vende, è una preparazione che è in continua evoluzione. Sulla formazione devo dire che stiamo lavorando tutti tantissimo ed è importantissima, come giustamente diceva l'ascoltatore di prima. Bentornati a Salvadanaio, oggi parliamo di viaggi, di turismo low cost in particolare, ossia di quei viaggi che si fanno tenendo anche un occhio al portafoglio, ed è sempre di più visto i momenti di crisi finanziaria che stiamo attraversando. Abbiamo degli ospiti con noi ai quali si aggiunge in questo istante Cecilia Mostardini, presidente delle guide di Siena e della Toscana, consigliere delle guide nazionali per il Sole 24 Ore. Noi l'abbiamo chiamata e grazie per essere qui in questo momento di trasmissione, per qualche minuto almeno, per parlare del trekking urbano. Di cosa si tratta innanzitutto? Sì, buongiorno a voi. Buongiorno. Intanto il trekking urbano è un'iniziativa che è nata veramente totalmente gratuita da un'idea dell'assessore al turismo del comune di Siena, la dottoressa Donatella Cinelli Colombini, nel lontano 2004, quindi sono già passati un po' di anni. E è veramente un fiore all'occhiello della nostra città per riscoprire il piacere dell'arte e della natura camminando. Infatti quest'anno, che siamo noi alla quinta edizione, si è già svolta, perché si è svolta il 31 di ottobre, abbiamo dedicato al trekking ai misteri. Infatti il titolo era... Ma di cosa si tratta? Ci spieghi innanzitutto cos'è? Praticamente è un tipo di proposta, un nuovo modo di fare turismo lontano dai circuiti più famosi. Si privilegia i panorami, i monumenti meno conosciuti, i luoghi praticamente dove si svolge l'attività quotidiana proprio nelle città. È dedicata sia a turisti sia anche a residenti, perché i residenti hanno un modo nuovo di approcciarsi a ciò che conoscono abitualmente. È partita da Siena questa idea, ma mi sembra che abbia contagiato altre città in Italia. Sì, per fortuna è stato un contagio positivo, 33 città ad oggi e siamo alla quinta edizione. Viene organizzata dai comuni, dall'assessorato, diceva, ed è gratuita, è così? Sì, viene organizzata da tutti i comuni in collaborazione poi naturalmente con le istituzioni e con le associazioni delle guide locali. È gratuita, totalmente gratuita. Grazie a Cecilia Mostardini, che è stata con noi per raccontarci che cos'è il trekking urbano. Torniamo a parlare con voi ascoltatori all'800240024. Stefano da Roma, buongiorno. Sì, buongiorno. Senta, volevo portare la mia esperienza. Ci siamo trovati due coppie a Ginevra, nello stesso hotel, a pagare praticamente lo stesso weekend, prenotato su due operatori diversi, due operatori online, abbastanza importanti entrambi, e la differenza che il primo operatore aveva garantito non esserci, diciamo che aveva operato uno sconto maggiore, è stata pagata poi dal cliente direttamente nell'hotel, come se ci fosse un supplemento che non era da qualche parte stato notificato al cliente. Non ho capito, vi hanno chiesto di pagare in più? Sì, praticamente nel pacchetto che era stato acquistato non era previsto un qualche supplemento, che ovviamente siamo rimasti un po' colpiti da questa cosa, perché praticamente la differenza tra i due pacchetti era solo quello di questi supplementi, ecco. Sì, Stefano, si sente anche purtroppo male, la linea è un po' disturbata. Cerchiamo di ripristinarla magari, ma da quello che ho capito, insomma, le hanno chiesto di pagare qualcosa in più rispetto a quello che lei aveva pattuito. Francesca Benati di Expedia, può succedere? Allora, ahimè può succedere, l'ascoltatore che ha appena chiamato ne è una testimonianza. In realtà non dovrebbe succedere, nel senso che parlo per Expedia, ma sono sicura vale anche per tutti gli altri operatori online. I contratti con gli alberghi sono molto rigidi e sono fatti a tutela assoluta del consumatore, per cui tutte le clausole del contratto devono essere rispettate dall'albergo. Può capitare che succeda, in questo caso io consiglio uno di chiamare immediatamente il call center. Tutti le agenzie online hanno dei call center che funzionano 24 ore su 24 e sono tutti assolutamente disponibili, e poi rivalersi nel caso non bastasse, ma sono convinta che basti, anche poi in termini insomma giudiziari, perché può succedere che gli albergatori poi non assolvano completamente il contratto. Ettore Pettinaroli. Sì. Voleva aggiungere qualcosa? È una cosa abbastanza rara che succeda una richiesta di supplementi negli alberghi. Succede comunque perché a volte si prenota con la convinzione di aver acquistato una serie di servizi e poi qualcuno rimane fuori, tipo il breakfast, tipo una camera in una posizione piuttosto con vista, piuttosto che più piccola o più grande. In tema di supplementi, che è un argomento molto molto delicato e molto importante, decisivo sul prezzo reale della vacanza, bisogna stare attenti soprattutto in tema quando si parla di trasporti, al di là degli aerei, ma anche i traghetti, che sono un'altra grande famiglia di operatori low cost, magari ti offrono un solo euro a un euro il passaggio da Genova alla Sardegna per il passeggero, e poi hai 20 euro di sovratassa carburante, 40 euro di tasse d'imbarco. Tutte queste cose qui dovrebbero essere ben evidenti nel contratto di acquisto. A volte non lo sono, ma bisogna stare attenti. Alberto Corti, ha sentito il nostro ascoltatore? Sì, assolutamente sì, è un fatto molto increscioso. Riguardo a quello che diceva Ettore Pettinaroli prima, tra l'altro c'è un regolamento dell'Unione Europea che come tale è diventato pienamente operativo senza bisogno di recepimenti da parte dei vari stati, che proprio chiarisce questo punto sulle tariffe dei trasporti in generale, di tutte le componenti di servizio, che debbono essere evidenziate in maniera chiara con tutte le loro componenti. Quindi la questione 1 euro costo del trasporto più 89 euro di costo di varie altre componenti non è ammissibile, il costo è 90 euro, punto. Per quanto riguarda la richiesta da parte di alcuni operatori, ecco, è chiaro che c'è un contratto che è un contratto in forma scritta, che si è fatto su Expedia, che si è fatto presso un'agenzia di viaggi, che si è fatto in qualsiasi altra modalità. Il contratto deve prevedere per legge, e prevede, tutte le componenti di prezzo di quel forfait che si va ad acquistare o di quel servizio che si va ad acquistare. Difendersi in via giudiziale purtroppo non è molto facile, soprattutto se si deve andare contro un albergatore svizzero, ma in questo caso devo dire che proprio l'avere scelto una formula organizzata, acquistata online o acquistata tramite un canale più tradizionale, è la difesa del consumatore. In realtà in quel caso non si può che andare in giudizio, se necessario, contro l'azienda dalla quale si è comprata, che è nella propria nazione, quindi nella propria area di riferimento. Sarà questa poi a rivalersi eventualmente nei confronti del fornitore. Pettinaroli, mi sembra importante anche chiarire il fatto che anche rivolgendosi a un viaggio online, a un'agenzia online, si hanno dei diritti, no? È importante questo, cioè c'è il codice del consumo, c'è una tutela normativa, c'è una normativa sui contratti a distanza, c'è addirittura anche il diritto di ripensamento, è così? Sì, sono le stesse tutele che si hanno acquistando da un'agenzia tradizionale. La legge, le prime leggi sul turismo, le leggi europee del turismo all'inizio degli anni 2000, non facevano differenza, anzi specificavano che le norme erano valide per l'acquisto nell'agenzia e fuori dai locali di agenzia. Allora internet era proprio agli albori, appena nato, ma nessuno può dire che ci sono che quello che vale nell'agenzia tradizionale non vale online. È la stessa tutela. 800 24 00 24 per chiamarci e raccontarci la vostra esperienza, oppure 349 238 6666 per mandarci un sms, come ha fatto Elisa, che ci chiede via sms: per viaggiare low cost si può solo pagare con carta di credito o carta prepagata? Non amo questi mezzi e li evito. Anche questo, mi sembra, Francesca Benati, è una forse delle cause di una diffusione non così ampia delle prenotazioni online, magari da una clientela non giovane, che quindi si fida meno di questi mezzi. Sì, questo è un problema che hai sentito comunque in qualsiasi settore dell'e-commerce. Ad oggi, ovviamente, secondo me il problema in realtà è un falso problema. Tutti i siti, almeno i più importanti, più accreditati online, di viaggi e non, mettono in campo delle caratteristiche, delle attività proprio per prevenire le frodi online e di sicurezza, che sono assolutamente sicuri. C'è quasi più rischio andare a pagare in un ristorante con una carta di credito che non sicuramente online. È una questione di cultura, in questo senso anche i media hanno un grosso ruolo nell'educare sull'utilizzo di queste forme di pagamento alternative. Ci sarà sempre comunque uno zoccolo duro di persone, magari non più giovanissime, che faranno resistenza. Segnaliamo anche il fatto che i siti internet sicuri, oltre che per fama, per autorevolezza che si sono conquistati sul campo, sono anche quelli riconoscibili, perché sul lato in basso a destra dello schermo hanno un lucchetto disegnato, no? Pettinaroli, cosa conviene fare? Carte di credito, prepagate? Voi cosa consigliate? Qual è il metodo più sicuro? No, visto che siamo ancora in Italia un pochettino indietro sull'acquisto informatico via elettronico, noi consigliamo, sono tutti metodi buoni di base, ognuno deve però acquistare come si sente, deve essere sereno fin dal momento dell'acquisto. Se proprio non vuole pagare con una prepagata, con una carta di credito, perché ha qualche timore, comunque intanto molte agenzie anche online permettono sistemi di pagamento tradizionali, magari rivolgendosi a un'agenzia di loro fiducia, non tutte, adesso bisogna vedere una per l'altra. L'importante, secondo me, è partire sereni e consapevoli di aver fatto la scelta sicura. Poi questi sono veramente, per pagare ci si trova sempre un modo. Torniamo a parlare di viaggi low cost, low cost di qualità, e questo è il tema di Salvadanaio di oggi, anche perché con il Sole 24 Ore oggi in edicola potete trovare una guida sul viaggio low cost di qualità. Parliamo con alcuni ospiti che sono oggi con noi per dipanare i vostri dubbi o per dare dei consigli o i quali raccontare la vostra esperienza. Claudio da Brescia, buongiorno. Buongiorno a tutti, come va? Buongiorno a lei, ci racconti la sua esperienza? Una cosa, io avevo bisogno solo di un'informazione. Io sì. Diciamo che prenoto, ho il vizio di prenotare un po' prima del tempo di partenza, perché così usufruisco di prezzi, diciamo, speciali. Il sì. Mio dubbio è questo: siccome l'ultima volta, con la faccenda dell'adeguamento del carburante, è stato uno stilicidio di andare e venire dall'agenzia, diciamo, una volta al mese, perché io ho prenotato a novembre per partire poi a marzo. Sì. Ora dovrei fare più o meno la stessa cosa. La mia domanda è: conviene prenotare adesso? Allora, lei deve prenotare per una vacanza che farà fra qualche mese? Esatto, cioè con l'adeguamento del prezzo del carburante, come mi certo. Regolo, cioè, nel senso. Grazie. Forse è meglio aspettare oppure no. Grazie Claudio. Giro la sua domanda ad Alberto Corti. Tra l'altro, il petrolio in discesa questa mattina sul circuito VTI di New York era in calo del 2%, però insomma questo adeguamento del carburante è sempre invece in salita, è così? Sì, purtroppo, anche perché il carburante si paga in dollari, di conseguenza per esempio una quotazione fatta adesso su una partenza di dicembre prenotata due mesi fa dà una riduzione del prezzo pagato proprio per quanto riguarda il costo del petrolio, ma una pressoché totale aumento a compensazione del prezzo dovuto invece al cambio dollaro. Quindi diciamo che, per rispondere alla domanda dell'ascoltatore, il vantaggio in termini di prezzo dell'acquisto anticipato c'è, resta, e questo non glielo toglie nessuno perché è contrattualizzato dall'inizio. Per quanto riguarda invece la parte degli adeguamenti o eventuali adeguamenti, devo dire che proprio da quest'inverno, in particolare per quanto riguarda i soci Federviaggio, ma direi un po' da parte di tutti, abbiamo fuori cataloghi che sono molto più dettagliati e specifici proprio per quanto riguarda le modalità con le quali questo adeguamento si fa. Quindi vengono indicati i parametri sia di costo del trasporto che di cambio e tasse che sono stati calcolati per fare quel prezzo, e viene anche indicato dove andare a seguire, su quali siti, quindi in maniera pubblica, la variazione di quei parametri. In pratica il consumatore, assieme alla sua agenzia dei viaggi, è in grado di farsi il calcolo dell'eventuale adeguamento, se mai ci sarà, da solo. Quindi siamo in trasparenza assolutamente totale. L'esperienza di quest'estate è stato uno stillicidio non solo per i clienti, ma devo dire anche per gli operatori, perché andare a chiedere al cliente di fare avanti e indietro una, due o tre volte dall'agenzia per pagare 20 euro piuttosto che una cosa che è più disastrosa per il sistema nel suo complesso che per il povero cliente. Come ci spiegava anche l'ascoltatore, al quale speriamo di aver risposto, certo è, lei ci spiegava il meccanismo, no? È vero che il petrolio è in calo, però anche l'euro è debole e quindi dipende anche da questo. Ma esiste mai un adeguamento carburante vantaggioso per chi acquista un viaggio? Ma diciamo che esistono senz'altro una serie di iniziative che si trovano sempre da questo inverno molto forti, di operatori che bloccano il prezzo, cioè tra le offerte all'acquisto, quindi all'acquisto, cioè beh, questa sarebbe una buona soluzione. Sì, chiaramente è un'operazione commerciale, un'operazione pubblicitaria che ha però i suoi, appunto, i suoi risultati positivi in termini di conoscenza del prodotto, per cui abbiamo una serie di operatori che fanno una quotazione e indicano, specificano dall'inizio che quel prezzo non varierà o non varierà per una o più delle clausole della legge che consentono di cambiare. Vorrei essere preciso: dal momento in cui si compra un pacchetto di viaggio, si compra un servizio, non è che quel prezzo possa essere variato a piacere di chi vende, ma può essere cambiato solo ed esclusivamente per variazioni dei tassi di cambio, del costo del trasporto, incluso il carburante, e delle tasse. Queste sono le uniche tre possibilità, e comunque non oltre 20 giorni prima della data di partenza. Alcuni operatori comunicano dall'inizio che per nessuna di queste tre variabili, oppure per alcune di queste tre variabili, il prezzo resta comunque bloccato ed è quindi garantito. Abbiamo un'altra domanda da parte di un ascoltatore che ci scrive un SMS. Scrive: tempo fa avevo prenotato un biglietto tramite un sito online. Arrivato in aeroporto ho scoperto che non potevo salire a bordo perché quell'aereo faceva scalo in un paese di cui non avevo il visto. In aeroporto mi avevano detto che potevo avere il rimborso quasi totale. Ho contattato tutti i numeri verdi possibili, ma ognuno ha scaricato la colpa sull'altro. Cosa devo fare? Grazie. Allora, Pettinaroli, cosa deve fare questo ascoltatore? Sembra incredibile, ma è un caso abbastanza frequente. Purtroppo c'è una responsabilità iniziale proprio da parte del viaggiatore, che una sua piccola negligenza, che però poi si trasforma in un disastro per il complesso della vacanza. Noi consigliamo sempre di informarci, magari c'è il sito del Ministero degli Esteri, Viaggiare Informati, che è molto sicuro, molto puntuale, dà anche tutto questo genere di indicazioni. Vale la pena perché ci pone al riparo sia in termini di visti che poi di vaccinazioni, che poi di sicurezza assoluta della vacanza da tanti imprevisti. Niente, basta. Non volevo interromperla, è che ci sono molti ascoltatori e siamo quasi in chiusura. Hélène dalla provincia di Trento, è giusto la pronuncia, Hélène? Sì, grazie. Giusto, sì, dica, perfetta. Velocemente, grazie, che siamo in chiusura. Sì, allora noi siamo una famiglia di 5 persone e volevamo fare un viaggio nel periodo delle vacanze di Natale perché i ragazzi sarebbero così a casa da scuola. Ho chiesto, siccome ho visto che i prezzi in quel periodo lì aumentano notevolmente, ho chiesto all'agenzia qui vicino, appunto, se mi conviene aspettare un low cost o last minute, quelle cose lì, insomma, che sì, per pagare meno. Mi hanno detto che in quel periodo lì non troveremo, perché vanno, i viaggi vanno in ogni caso, insomma, perché sono il periodo più frequentati. Ho capito, voleva sapere se è vero che non esistono. Se è vero. D'accordo. Francesca Benati di Expedia, è vero? Sì, è vero, è assolutamente vero, perché sfatiamo un mito. I low cost ci sono sicuramente le offerte, ma non si può parlare di low cost nel momento in cui ci sono poi delle festività canoniche. Le faccio un esempio. Sul nostro sito riscontriamo, ad esempio, se lei volesse andare a New York in questo momento, adesso pagherebbe un biglietto attorno ai 780 euro, che è già comunque il 40% in più di quello che avrebbe pagato a settembre. Se dovesse aspettare ad acquistare il biglietto a dicembre, lo pagherebbe 1100 euro. Nei periodi di alta stagione la tecnica del last minute non paga, anzi il contrario, non si trova più l'offerta e quello che si trova ha dei prezzi carissimi, proprio per il fatto che la gente è con l'acqua alla gola e vuole partire assolutamente. Viceversa è un discorso che aveva affrontato anche prima a Pettinaroli di flessibilità, però la sua agenzia le ha detto assolutamente la verità. Stefano da Udine, buongiorno, le chiedo di essere veloce. Buongiorno a voi. Io utilizzo internet oramai da parecchi anni per le prenotazioni, solo che lo uso principalmente per le prenotazioni all'estero, perché anche sui siti delle compagnie che avete citato prima ho sperimentato che in pratica il vantaggio per le prenotazioni italiane è sensibilmente inferiore a quello che si ha invece sulle prenotazioni all'estero. Volevo sapere da alcuni dei suoi invitati se la cosa corrisponde a verità e in caso qual è il motivo di questo mancato guadagno, diciamo mancato risparmio per le prenotazioni. Grazie, grazie Stefano. Pettinaroli, vice caporedattore di Tutto Turismo, per chiudere. Ma dipende dai contratti che le agenzie online fanno con gli albergatori, fornitori di servizi. Io penso che ci sia soprattutto una cultura degli operatori turistici italiani che sia ancora un po' giovane, per cui meno propensa a recepire fino in fondo la capacità, le possibilità che questo tipo di acquisto di agenzie online possono avere, insomma. Corti, velocemente, anche lei cosa risponde al nostro ascoltatore Stefano? Sì, senz'altro c'è anche da considerare che la stagionalità con la quale viaggiano gli italiani, ahimè, è completamente diversa da quella con cui viaggiano i nostri colleghi di tutta Europa, quindi una straconcentrazione della domanda che si verifica in un determinato periodo, mentre per esempio le catene charter o comunque sia gli obblighi nei confronti degli alberghi sono per periodi più lunghi, giocano purtroppo a sfavore di un prezzo mediamente più basso che ci consentirebbe quindi di far accedere al consumatore a condizioni migliori. Grazie a tutti gli ospiti che oggi sono stati con noi, Ettore Pettinaroli, Francesca Benati, Alberto Corti e per qualche minuto anche Cecilia Mostardini. Grazie a voi che siete stati all'ascolto. In redazione oggi Gaia Romani e Valeria Coffaro, in regia Peter Bescapè. Da Valentina Furlanetto è tutto. Salvadanaio torna domani, ora linea al nostro GR.